Letture di Radio 24. Il personaggio di Ugo Fantozzi, nel quale la maggior parte degli italiani afferma di riconoscersi, sta per compiere 50 anni. Il suo debutto avvenne infatti nel 1967 all'interno della trasmissione radiofonica Il Sabato del Villaggio. Per celebrare il mezzo secolo arriva il documentario di Mario Sesti, La voce di Fantozzi, dal quale L'Espresso anticipa alcune pagine scritte dallo stesso Villaggio. Io sono esattamente l'opposto di Fantozzi. Cioè, ho avuto fortuna nella vita, successo con le donne. Poco, ma insomma, molto vitalizzante, mi ha reso felice. Per il resto, in realtà, non credo di essermi ispirato a nessuno. Ho cercato un personaggio perché piacesse al pubblico, il che forse è l'obiettivo fondamentale di ogni impresa del genere. Se sono una persona riuscita nella vita, ci sono riuscito grazie a un personaggio che non c'è riuscito assolutamente. Esattamente non ricordo il giorno, l'ora, l'anno in cui nasce Fantozzi. Nasce a Bocconcini, a Pezzetti. La cosa più importante è che ha una caratteristica. È sfortunato, è infelice. Ha una moglie che sembra una rana, una figlia che sembra una scimmia. E tutto naturalmente è esagerato, perché l'esagerazione è convincente, è comica, fa ridere. L'idea di base era la possibilità di usare questo personaggio che nasce con la caratteristica fondamentale di non riuscire nella vita. La sua comicità ha qualcosa in comune al 99% degli italiani e quindi è fondamentalmente un personaggio che conforta. Non siamo tutti fortunati, anzi, siamo quasi tutti convinti di essere molto sfortunati. Io trovo che Fantozzi abbia una caratteristica particolare, che è molto, molto, molto simpatico. Non è aggressivo. Questo è Fantozzi. La cosa che lo rende più tranquillo è: allora sono come tutti, e quindi sono abbastanza normale. La comicità di Fantozzi non è tanto nella situazione, quanto nel linguaggio che la racconta, che diventa un linguaggio mai sentito prima, del tutto differente da quello normale. D'altronde, i grandi comici sono stati tutti padroni di una neolingua, che è quella di un linguaggio comico, che è quello che usa Fantozzi nelle sue autobiografie. Poi ci sono delle invenzioni, come la nuvoletta da impiegato, la sfortuna rappresentata da un uomo che il sabato pomeriggio va al mare con la moglie, dove è pieno di sole ovunque, tranne per quella nuvoletta maligna che appena lo vede si va a piazzare dove è lui e lo bersaglia ferocemente. In realtà il comico è un perdente sempre. Non esistono comici che hanno successo. Tutti i grandi comici hanno questa caratteristica. Sono ignoranti e hanno la certezza di essere infelici. Ho cercato, per vanità, di fare il regista degli altri film dopo i primi due, che risultarono di livello inferiore fin quando tutto è degenerato ed è diventato qualcosa di conformista. Quando la comicità diventa già vista, già sentita, non è creativa, ma è ripetitiva di un motivo di successo nella speranza che funzioni. E funzionava ancora, ma non come i primi due, che avevano una presenza, una comicità assolutamente diversa, creativa, nuova. Avete ascoltato alcuni passaggi del testo di Paolo Villaggio? Fantozzi è lei? No, siete voi. Dall'Espresso del 27 novembre. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema Digital Radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Letture di Radio 24. L'assegnazione del Nobel a Bob Dylan aveva diviso fin dall'inizio l'opinione pubblica. Tra chi mostrava fastidio all'idea che il più importante riconoscimento letterario venisse conferito ad una pop star, a chi invece trovava coraggiosa la scelta dell'Accademia svedese. Tra questi si schierò fin dall'inizio Leonard Cohen, il cantautore canadese che sarebbe scomparso pochi giorni dopo. Per sottolineare l'ovvietà della scelta, Cohen disse: «Per me è come dare al Monte Everest una medaglia per la montagna più alta del mondo. Una dichiarazione che ci porta a domandarci se esistano ancora, al giorno d'oggi, dei geni individuali, persone che potrebbero essere annoverate tra i giganti di ogni tempo. Sulla questione sono stati interrogati alcuni studenti del MIT di Boston, ai quali è stato chiesto di indicare quali fossero, secondo loro, i personaggi più influenti di tutti i tempi. Ecco i risultati, come raccontato da Andrea Pomella in un articolo pubblicato sul sito Rivista Studio. Nella classifica generale, ai primi tre posti si sono classificati Aristotele, Platone e Gesù Cristo. Scorrendo le graduatorie per categorie, si scopre che tra gli scrittori il podio è occupato da Omero, Shakespeare e Dante. Tra gli attori, Marilyn Monroe, Bruce Lee e Charlie Chaplin. La particolarità che accomuna questi nomi è che sono tutti personaggi appartenenti ad altre epoche. Per trovare un personaggio che sia ancora vivo, bisogna leggere la classifica dei musicisti, dove al terzo posto, dopo Jimi Hendrix e Bob Marley, compare, guarda caso, Bob Dylan. È abbastanza ovvio sottolineare la parzialità di questo tipo di classifiche, ma ciò di cui si deve tener conto è che l'obiettivo della mappatura degli studenti dell'MIT non era stabilire oggettivamente i personaggi più rilevanti della storia, ma capire quali tra questi siano oggi percepiti come i principali, chiamiamoli così, influencer della civiltà contemporanea. È altrettanto ovvio che la distanza storica consente di determinare meglio l'impatto che l'operato di un personaggio ha sulla nostra contemporaneità. Tuttavia, è ragionevole immaginare che nei futuri manuali di storia nessuno tra i presidenti americani che si sono succeduti dall'assassinio di John Fitzgerald Kennedy in poi comparirà dentro qualcosa di più di una scarna citazione. Barack Obama sarà ricordato per essere stato il primo presidente nero degli Stati Uniti, certo, ma non perché i suoi due mandati hanno inciso così profondamente nella vita collettiva di quel paese. Lo stesso nome di George W. Bush, che ebbe la ventura di essere il presidente in carica l'11 settembre 2001, non verrà tramandato ai posteri soffuso dell'albore che circonda il nome, per esempio, di Abraham Lincoln o di Franklin Delano Roosevelt. Allo stesso modo, mi chiedo se in una futura storia delle scienze a un genio come Stephen Hawking verrà riservato lo stesso spazio di Archimede, Galileo, Newton ed Einstein. E che dire di artisti come Damien Hirst, Marina Abramovic e Jeff Koons? La forza della loro opera è assimilabile a quella di Giotto, Michelangelo e Picasso? E ancora, l'attuale campione del mondo di scacchi, il giovane norvegese Magnus Carlsen, saprà segnare un'epoca come fecero a loro modo Bobby Fischer e Alexander Alekhine? E i pontificati di Benedetto XVI e di Francesco? Saranno annoverati tra i più significativi della storia della Chiesa? L'impressione è che viviamo in un periodo storico tutto sommato trascurabile, se paragonato ad altri periodi della storia umana. I personaggi pubblici che animano il nostro tempo non possiedono quell'energia propulsiva che sconvolge e migliora la società e che si proponga come un'onda oltre il presente e negli anni a venire. Eppure viviamo in un mondo in cui la media generale degli individui possiede talenti e saperi in misura infinitamente maggiore rispetto a quanta ne abbia posseduta la media degli esseri umani vissuti in un qualsiasi altro tempo. Ma in questo mondo nessuno è in grado di massimizzare, per così dire, il proprio dono. L'accesso diffuso alle risorse culturali non fa il genio. In sostanza, non esistono oggi persone di così straordinarie doti intellettuali e morali, o di così enorme ingegno, che dominano incontrastati in un campo della letteratura, dell'arte, della scienza, della politica, e il cui talento verrà ricordato fra mille anni. Oggi esistono migliaia di scuole di musica in cui si può affrontare a vari livelli lo studio di uno strumento musicale. Esistono altresì corsi di scrittura creativa in cui chiunque può dotarsi della cassetta degli attrezzi necessaria per ideare un romanzo o semplicemente per raccontare una storia. Le stesse scuole di musica non esistevano ai tempi in cui Elvis Presley imparava da autodidatta a suonare la chitarra e perfezionava il suo stile vocale, ascoltando i cori gospel nella chiesa di Memphis, o se esistevano, erano in numero assai minore rispetto ad oggi. Così come non esistevano scuole di scrittura nella San Pietroburgo di Dostoevskij. C'è però oggi, rispetto ai tempi di Elvis e di Dostoevskij, un numero immensamente maggiore di musicisti professionisti e di scrittori che pubblicano con regolarità opere letterarie di grande pregio. Ma non c'è un gigante come Elvis, tantomeno un Dostoevskij. La cosa che spiega forse questa apparente contraddizione è l'assenza oggi di un complesso di condizioni culturali, storiche e sociali ideale a far fermentare i talenti. È quindi la temperie la vera fucina dei giganti? O forse, più semplicemente, l'affermazione statistica che il genio nasce ogni 100 anni ci pone di fronte alla realtà banale e sconfortante che non viviamo nell'intervallo di tempo giusto per assistere all'agognato prodigio. E se poi il genio fosse in fondo come la pianta che fiorisce una sola volta nell'arco di un secolo? E quando fiorisce emana un odore che somiglia a quello della morte? E ancora, se ammettessimo invece che i giganti esistono, ma sono sopraffatti dall'aurea mediocritas generale, se il loro destino di essere solitari in un tempo magmatico come il nostro fosse quello di soccombere penosamente nella folla indifferenziata? Eric McLuhan, esperto di comunicazione ed ecologia dei media, chiama la moltitudine raziocinante che orienta gli odierni dibattiti sociali folla elettronica e la definisce come una sorta di intelligenza collettiva senza corpi. Siamo tutti noi, o perlomeno quanti riversano quotidianamente informazioni nella rete. In uno scenario di questo tipo, il genio solitario, ossia il condensato purissimo di talento, estro e immaginazione, viene estemperato e tutto il suo potenziale disciolto come un confetto effervescente in un bicchier d'acqua. Il genio produce degli effetti sulla civilizzazione, ma si tratta di effetti senza paternità. Il paradosso è che nell'era dell'individualismo trionfa il genio impersonale. Avete ascoltato alcuni passaggi dell'articolo di Andrea Pomella «Ma esistono ancora i giganti?» pubblicato il 21 novembre sul sito Rivista Studio. Lo scorso 26 novembre, mentre in tutto il mondo si svolgevano manifestazioni contro la violenza sulle donne, in Marocco una TV di Stato mandava in onda un tutorial che spiegava alle donne come mascherare con il trucco i segni delle violenze domestiche. Il video è stato trasmesso in un programma di Channel 2M. Speriamo che questi consigli di bellezza siano utili per la vostra vita di tutti i giorni, ha detto la presentatrice terminata la visione del tutorial. Assicuratevi di usare una cipria ultra sottile per fissare il make-up, così se dovete passare tutto il giorno al lavoro, i segni non si vedranno, ha detto con aria allegra la presentatrice, che ha poi raccomandato i migliori prodotti di bellezza per eseguire l'operazione. Quelli che hanno visto il video hanno commentato sui social che si trattava di un lavaggio del cervello per far credere alle donne che le violenze sono una componente normale e accettabile di una relazione e che la cosa giusta da fare non è denunciarle, ma coprirne i segni. Centinaia di donne hanno già firmato una petizione per dire che la standardizzazione della violenza contro le donne va denunciata e hanno chiesto sanzioni contro la rete televisiva. In risposta ai commenti, il canale televisivo ha già rimosso il video dal proprio sito e ha postato un chiarimento sulla propria pagina Facebook, dicendo che la trasmissione era completamente inappropriata e conteneva un errore editoriale di giudizio in merito alla gravità del soggetto della violenza alle donne. Ma le attiviste hanno giudicato inadeguate le scuse. Oltre a metterne in dubbio la sincerità, hanno fatto notare che molte delle donne che sono vittime di violenza domestica e che hanno visto quel video potrebbero essere analfabete o comunque non in grado di leggere le scuse postate dall'emittente. Pur essendo stato tolto dal sito del canale televisivo, il video ha comunque continuato a circolare sui social. L'emittente alla fine ha mandato in onda un video di scuse. All'inizio di quest'anno l'organizzazione Human Rights Watch aveva inviato una lettera al governo del Marocco per esprimere preoccupazione sul modo in cui vengono trattate le violenze domestiche. La polizia marocchina, i pubblici ministeri, i giudici e le altre autorità spesso non fanno nulla per prevenire le violenze domestiche, per punire i responsabili o per assistere le vittime. In parte questo è dovuto al fatto che le leggi in Marocco non forniscono strumenti per rispondere adeguatamente alle violenze, spiegava l'organizzazione nel comunicato. Un sondaggio realizzato dall'Alto Commissariato del Marocco tra donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni ha rivelato che nel 2009 due terzi di loro avevano subito violenze fisiche, psicologiche, sessuali o economiche. Il 55% delle intervistate ha segnalato di avere subito violenze coniugali e il 13,5% violenza in famiglia. Solo il 3% di quelle che hanno subito violenze coniugali le hanno poi denunciate. Avete ascoltato l'articolo di Charlotte England? La TV di Stato marocchina spiega alle donne come nascondere con il trucco le prove delle violenze domestiche. Dall'Independent del 27 novembre.